Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa puntata si chiamano oggi, per quello che riguarda la cronaca economico-finanziaria, all'Italia, come immaginabile, il braccio di ferro tra alcune sigle sindacali e il governo, in sostanza, oltre che la CAI e il commissario Fantozzi, e si chiamano anche iniziative governative che il ministro Monti ha promesso arriveranno a Natale per sostenere l'economia, i consumi ma anche le imprese. Quindi resta il tema che stiamo seguendo da giorni interi su quanto le banche stiano stringendo il credito a famiglie e imprese. Però da poco si chiama anche borsa, perché dopo un avvio ieri positivo di un punto e mezzo percentuale, e dopo una settimana, quella scorsa, in cui si erano alternate sedute positive e sedute negative, ma insomma non si erano avuti scossoni drammatici, per quanto i cali fossero stati anche pesanti, adesso le borse stanno tutte perdendo il 5%, quasi tutte, perché perde il 5% Parigi, il 5,4% Francoforte, il 3,3% Londra, il 5,6% lo perde Milano sull'S&P MIB e il MIBTEL perde il 4,8%. A trascinare al ribasso le borse sono, a Milano ma non solo, i titoli bancari. San Paolo adesso perde il 9%, ma è arrivata a perdere, ad avere un calo record del 15,5%. Unicredit adesso perde il 6,8%, ma è arrivata a perdere il 9% poco fa, tra l'altro. San Paolo ha pubblicato la trimestrale, meno 44% l'utile, a 3.778 milioni di euro. Ha rafforzato i coefficienti patrimoniali, ma insomma il calo è pesante, anche perché questi due cali di Unicredit e Intesa segue quello di UbiBanca, meno 6,3, Banco Popolare meno 6,2, Monte dei Paschi meno 5,8, e quindi sotto pressione di nuovo tutto il settore bancario. Deborah Rosciani, che come ogni pomeriggio vi ha aggiornato l'andamento delle borse dopo aver fatto la diretta di Salvadanaio dalle 12 all'1, buonasera. Sì, buonasera a tutti, buonasera Sebastiano e ai nostri ascoltatori. Allora, che cosa è successo per fare peggiorare le borse in questo modo? Certo, Wall Street non ha aiutato, meno 3% in questo momento il Dow Jones, lì c'è la vicenda General Motors, ne parleremo più avanti, un altro tema di questa puntata, meno 17% GM, il titolo è ai minimi dal 1943, è a $2,7 per azione. Ma per quello che riguarda le borse europee, Deborah? Guarda, non si riescono ad individuare delle motivazioni razionali che oggi hanno determinato appunto un andamento di questo tipo, e soprattutto un peggioramento molto marcato e molto deciso nel pomeriggio per i listini europei. La responsabilità che leggo dalle agenzie e che ho avvertito anche tra qualche operatore che ho sentito è ancora riconducibile alla situazione negli Stati Uniti, a quello che sta accadendo a General Motors, lo dicevi, ne parlerete, il titolo adesso a Wall Street sta perdendo di nuovo il 15%, trascina ribasso Wall Street e porta giù anche l'Europa. I timori della recessione ci sono, questi non rappresentano certo una novità in questo periodo, ma a quanto pare ancora non è stata fatta una chiara stima, non è possibile prevederla d'altronde di quanto l'economia potrà soffrire in futuro, e di conseguenza quello che accade a General Motors in qualche maniera alimenta ed enfatizza le preoccupazioni generali. Oggi tra l'altro il titolo si è portato sui livelli dal 1943, quindi ancora una situazione davvero preoccupante per gli Stati Uniti. Devo dire che sicuramente, forse, adesso non so se è un'interpretazione giusta quella che do, sicuramente l'ho individuata un po' intercettata oggi dai movimenti di borsa, la trimestrale di Intesa, quindi un fatto italiano, ha generato anche un po' di preoccupazione in tutta Europa. I conti sono stati diffusi nel pomeriggio, anche di questi parlerete sicuramente nel corso del collegamento di borsa più tardi con Radio Core, ma ancora una volta sono tornate enormi preoccupazioni riguardanti il comparto bancario europeo, quindi anche il caso italiano oggi ha sicuramente avuto un impatto sulle contrattazioni fra i listini del vecchio continente, e quindi diciamo un mix di fattori: il comparto finanziario che continua a soffrire moltissimo e non si sa quando dai bilanci verrà fatta la totale chiarezza rispetto alle esposizioni sui titoli subprime e sui titoli appunto derivanti dalle cartolarizzazioni e quant'altro, ma poi c'è anche appunto il problema della recessione negli Stati Uniti che preoccupa non poco, tanto che per esempio in Europa stanno scendendo oggi molto i titoli del lusso, vedo Elvemash a Parigi per esempio, Pinot Pri Temp, e quindi titoli che hanno ovviamente una larga fetta di fatturato esposta in dollari, se l'economia americana va male è chiaro che anche queste società ne risentono molto, per cui oggi davvero si sono accavallati tanti fattori che hanno alimentato moltissimo le vendite. Allora, grazie a Deborah Rosciani. Avete capito che cosa stia influendo in maniera negativa sui mercati. Non a caso Deborah Rosciani citava i titoli del lusso. Bulgari perde il 5,4% in questo momento a Piazza Affari, ma vanno male anche i titoli energetici, meno 4,5 Eni e Saipem. La Banca Popolare di Milano, chiedono alcuni di voi, perde il 4%. Si salva solo Italcementi, che guadagna il 2,2%, Eterna che perde un modesto 0,1%. Ancora l'euro è a livelli bassi, a 1,2549, ma come spiegava sempre Deborah Rosciani, in realtà sono così forti i timori di un rallentamento brusco dell'economia americana che non basta nemmeno l'effetto di apprezzamento del dollaro e indebolimento dell'euro a controbilanciare i timori sul 2009, timori oggi sottolineati nuovamente dal commissario europeo agli affari economico monetari Joaquín Almunia. Ne parleremo nelle notizie in breve. Sì, già questa mattina l'Asia aveva dato il là alle vendite: Hong Kong meno 4,7, Giappone il Nikkei meno 3%. Parleremo anche di Intesa San Paolo, delle banche. Ripeto, l'utile nei primi 9 mesi ha fatto un meno 44%, però l'anno scorso includeva anche alcune plusvalenze, alcuni guadagni netti da cessioni per circa 3 miliardi e mezzo. E poi non distribuirà dividendo in contanti Intesa San Paolo nel 2008, quindi immaginiamo solo in azioni. Comunque soddisfatto il numero uno Corrado Passera, ha detto: ci siamo concentrati sulle priorità intese come solidità del gruppo e sostenibilità dei risultati, e siamo soddisfatti. E siamo anche fiduciosi, ha continuato Passera, che un accordo verrà trovato nei prossimi giorni o entro le prossime settimane in merito alle possibili misure decise dal governo per rafforzare le banche italiane, ma escluso Corrado Passera un aumento di capitale per Intesa San Paolo. Sempre sulle trimestrali, Enel più 86% l'utile nei primi 9 mesi dell'anno, a quasi 5 miliardi di euro, grazie anche alla spagnola Endesa, acquisita completamente nell'ottobre del 2007. In tema di trimestrali, oggi li ha diffusi anche il gruppo Rizzoli Corriere della Sera. Utile a 20 milioni di euro contro i 165 dello stesso periodo l'anno prima, e i ricavi netti a 2 miliardi in linea con quelli dell'anno scorso. Sempre in tema di bilanci trimestrali, prosegue il trend di crescita di Ansaldo STS nei primi 9 mesi dell'anno. Infatti la controllata di Finmeccanica, che si occupa in primo luogo della segnaletica dei collegamenti ferroviari ma anche metropolitani, delle metropolitane intendo dire, e tutto quello che è la segnaletica per il trasporto, nei primi 9 mesi dell'anno, dicevo, il gruppo ha registrato un utile netto di 50 milioni in aumento del 36% rispetto ai primi 9 mesi del 2007. Seat pagine gialle invece ha chiuso i primi 9 mesi con un utile in calo del 14% a 11 milioni di euro, i ricavi invece stabili a 986 milioni. Dicevamo che a ricordare i timori sul 2009 ci ha pensato oggi il commissario europeo Joaquín Almunia, che ha detto: le nostre previsioni per l'economia europea non sono solo tetre ma anche altamente incerte. Almunia si meriterebbe con questa frase un animale che alcuni di voi conoscono, perché ha detto non solo sono tetre ma anche incerte, e la frenata sarà nel 2009, nel 2010, saranno anni difficili. E poi ha aggiunto: vi è ancora una minaccia per la stabilità delle banche, allora la nostra mascotte. Era un po' che il gufo non tornava, ma il gufo è vivo e lotta insieme a noi, purtroppo, vista la giornata di borsa. Andiamo avanti, sì, con massimo rispetto nei confronti del commissario europeo agli affari economici e monetari, ma insomma, dire che non sono solo tetre ma anche altamente incerte, che saranno anni difficili e che ci sono minacce per la stabilità delle banche, si merita il premio. Passiamo al ministro Giulio Tremonti, che ha detto che la legge finanziaria, su cui il governo, come ha specificato ieri sera il governo, non metterà la fiducia, la legge finanziaria per i tre anni è già basata sul presupposto di una crisi in arrivo e in intensificazione, che comunque il deficit, nonostante la crisi finanziaria e economica in atto, il deficit italiano resterà sotto la soglia del 3% chiesta da Bruxelles, che alle famiglie verrà dato il possibile senza però toccare, diciamo, peggiorare il deficit italiano e compromettere il deficit italiano. Ha anche aggiunto che cambieranno le tariffe autostradali nel pacchetto complessivo per stimolare la domanda anche di investimenti, e che le banche, che richiederanno l'intervento pubblico per fronteggiare la crisi, per ottenerlo l'intervento pubblico dovranno prima aver adottato e applicato un codice etico a favore dei clienti. Sempre, ma ne parleremo tra un attimo, il ministro Tremonti ha detto che comunque per la cassa integrazione guadagni, quindi la cassa integrazione verrà integrata, perché l'anno è sicuramente non positivo e difficile, e che il decreto per quello che riguarda le famiglie e imprese, ripeto, dovrebbe arrivare entro il 25 novembre, poco dopo la riunione dei G20 a Washington. I conti fiscali italiani. Allora, il gettito fiscale nei primi nove mesi ha fatto un più 3,1% a 282 miliardi, questi dati di cassa del gettito tributario. Tra l'altro, l'anno prima, nel 2007, nello stesso periodo, si segnò un più 6%, quest'anno ha rallentato a un più 3%. Nel mese di settembre. Sempre però per quello che riguarda le entrate fiscali, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha detto, intervenendo alla conferenza annuale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che la prossima settimana sarà pronto il mini unico, ossia il modello di dichiarazione per chi ha redditi semplici. E poi ha anche aggiunto che l'amministrazione fiscale dovrà verificare come la crisi economica e finanziaria abbia agito e come agirà nel 2009, eventualmente anche per rivedere gli studi di settore. Stiamo analizzando in che modo la crisi ha agito e agirà, perché a mio avviso la crisi vera è quella che agirà nei bilanci 2009, non la crisi che stiamo vivendo adesso, nei vari settori economici e nei diversi territori. Quindi per noi diventa sempre più fondamentale l'apporto degli osservatori regionali per valutare i nuovi studi di settore, gli aggiornamenti di settore e per vedere dove emergono e come emergono le situazioni di crisi. Proprio perché, considerando questa situazione di crisi economica finanziaria, vogliamo dare un ulteriore impulso all'attività di verifica e di analisi dei settori interessati. Ancora, la prima azienda italiana, purtroppo, si chiama Mafia S.p.A., ha un fatturato annuo complessivo di circa 130 miliardi di euro e un utile che sfiora i 70 miliardi di euro al netto degli investimenti e degli accantonamenti, che nel mondo della criminalità organizzata immaginiamo cosa siano. Ebbene, questo è il rapporto della Confesercenti SOS Imprese. Nel 2006 il fatturato era di 77 miliardi, nel 2007 90 miliardi, quest'anno 130. Insomma, la crisi, la mafia non sente nemmeno la crisi, non solo il contrasto dello Stato, ma nemmeno la crisi finanziaria. 180.000 commercianti coinvolti nel pagamento del pizzo, in sostanza, attenzione, quando parliamo di pizzo non è solo il racket vero e proprio, il pizzo può anche essere obbligare un commerciante, un industriale a rifornirsi da un certo cliente per l'acquisto di materiali. Questo è anche pizzo quando non c'è libertà di scelta. Dicevo, il numero di commercianti coinvolti è oltre supera i 180.000 e tra l'altro gli indebitamenti avvengono con più strozzini, sottolinea la Confesercenti, e le posizioni debitorie possono essere ragionevolmente stimate in oltre 500.000. E anche di questo parleremo ma nella seconda ora del programma. Adesso un tema nuovo, mai trattato, che per la prima volta affrontiamo, la vicenda Alitalia. Che è successo oggi? Già ve lo hanno raccontato i nostri GR. La Procura di Roma indaga per interruzione di servizio, di pubblico servizio, in merito agli scioperi decisi a sorpresa ieri. Caos e voli cancellati, 53 voli cancellati solo a Linate, ma il ministro Maroni che dice non tollereremo l'illegalità, il ministro Matteoli che dice se la precettazione non serve ci sono le norme penali, l'ENAC, ossia l'autorità che controlla il traffico aereo, che valuta le sanzioni, chiede i nomi degli equipaggi assenti, la collera dei passeggeri. Questa mattina il nostro GR riportava alcune voci inferocite di passeggeri a Linate e a Fiumicino, e poi altre dichiarazioni dei politici. Tra l'altro potremmo anche avere la voce del commissario europeo Tajani, che si trova oggi a Milano, ma insomma, dopo l'anticipazione di Radio Coro sulle 24 ore è abbastanza certo che domani la Commissione europea darà il via libera al piano di rilancio per l'Italia. Sarà bocciato invece il prestito ponte da 300 milioni, giudicato aiuto di Stato illegale, e quindi il rimborso non lo dovrà però fare la nuova Alitalia, quella della CAI, ma la parte che resterà in mano al commissario straordinario Augusto Fantozzi, cioè la vecchia Alitalia. Questo perché ha ritenuto la Commissione europea che in realtà la CAI vada a comprare solo alcuni pezzi dell'Alitalia e quindi non si possa parlare di continuità aziendale. Dicevamo che indaga anche la Procura di Roma e anche la Procura di Civitavecchia, dell'ENAC, che valuta le sanzioni, vuole i nomi degli equipaggi assenti, e appunto delle dichiarazioni del Ministro dell'Interno, Roberto Maroni. Quello che è avvenuto ieri, questo picchetto davanti all'aeroporto non potrà più avvenire, così come non dovrà più avvenire lo sciopero selvaggio, perché è una violazione della legge. Sono tutti comportamenti illegali che noi intendiamo contrastare per garantire ai cittadini i diritti che i cittadini hanno, in primo luogo quello di muoversi. E ancora il ministro del welfare Maurizio Sacconi: sono atti illegali, c'è un problema di rispetto delle regole, delle leggi, non è possibile che minoranze paralizzino il nostro sistema aeroportuale, occorre una nuova legge sugli scioperi. E per quello che riguarda Massimo D'Alema, D'Alema ha detto questa forma di lotta è dannosa per i lavoratori, lo ha dichiarato a margine del convegno internazionale della CISL. Sono dannose innanzitutto per i lavoratori che le praticano, oltre che per i cittadini, e quindi spero che i problemi possano trovare una soluzione attraverso il dialogo, non danneggiando gli utenti. Posizione diversa, ma questa non è una novità, quella di Antonio Di Pietro, che al microfono della nostra Chiara Di Michele, a margine della conferenza annuale, del convegno annuale dei commercialisti, ha detto insomma, i lavoratori di Alitalia non sono delinquenti. La questione Alitalia è una questione da molte facce. Non v'è dubbio che è necessario garantire il trasporto perché il cittadino, l'utente, viene messo al primo posto. Ma non crediate che i lavoratori Alitalia siano loro i delinquenti. I delinquenti sono coloro che hanno fatto fallire Alitalia, non salvare. I delinquenti sono coloro che hanno impoverito e indebitato Alitalia, che non sono i lavoratori. I lavoratori sono l'ultimo anello di una catena che si stanno ribellando a un modello di rapporto di lavoro che si vuole improntare nei loro confronti davvero da Americhe pre-rivoluzione, dove c'era ancora Kunta Kinte. Nella scelta di chi mandare a casa, la società pretende di poter mandare a casa casi, innanzitutto le donne incinte, le mamme con bambini piccoli, i portatori di handicap, coloro che non possono fare il turno di notte, insomma, come nella giungla, la selezione della specie, soltanto la razza sana deve rimanere perché deve lavorare e produrre, gli altri vengono abbandonati a se stessi. Credo che su questo il governo stia facendo un grande errore a non cercare di riaprire le trattative per tutelare i soggetti più deboli. Un po' di pazienza con gli sms che arrivano invece al 349-238-6666, risponderemo anche a quelli. Così Antonio Di Pietro, invece il capogruppo del PD alla Camera, Antonello Soro, ha detto: ci si trascinano nel tempo sulla vicenda all'Italia degli errori, ma certo il governo ha sbagliato nei mesi scorsi, anche se con lo sciopero di questi giorni i sindacati autonomi portano ancora molto male al nostro paese. Purtroppo su Alitalia si trascinano nel tempo gli errori un po' da tutte le parti e crediamo che non sia necessario lo sciopero per riaprire la trattativa, anzi pensiamo che questo sciopero faccia ulteriormente precipitare negativamente la questione. Il governo ha sbagliato nei mesi passati, i sindacati hanno perso la grande occasione di marzo di fare un accordo serio con Air France, i sindacati autonomi che oggi fanno lo sciopero non riusciranno con lo sciopero a riaprire la trattativa, ma porteranno ancora molto male al nostro paese. E poi sindacati, non quelli che stanno scioperando, nel caso specifico il leader della CGIL Guglielmo Epifani, al microfono del nostro Vincenzo Miglietta, ha detto: ci sono tre responsabilità nella vicenda all'Italia, la prima delle quali viene imputata alla CAI, ma poi ha chiesto al sottosegretario della Presidenza del Consiglio Gianni Letta di assumersi il compito di mediatore. La sua incapacità di amministrare problemi con il personale, come da tempo abbiamo visto. Secondo, quella parte del governo che minaccia in continuazione invece di ricercare coerenza di comportamenti e stimoli per uscire da questa situazione. Terzo, un radicalismo estremista che non fa gli interessi né della compagnia né dei lavoratori e mette i cittadini contro il futuro della compagnia aerea. Questa è la situazione in cui siamo. Per questo penso che ci voglia un soprassalto di responsabilità. Il sottosegretario Letta si era assunto il compito di fare da mediatore, di interprete di alcune parti del contratto che non corrisponde al primo testo firmato. Io credo che Letta lo debba fare. La CAI debba dotarsi di un capo del personale, perché non può andare avanti senza capo del personale e senza struttura, e bisogna assolutamente dire a coloro che operano attraverso scioperi non legali che non è così che si fa e si rispetta il rapporto tra utenti, lavoratori e cittadini, perché questo può dare il pretesto a quella parte del governo che usa le minacce di intervenire autoritativamente sul terreno così delicato del diritto di sciopero. Così appunto Guglielmo Epifani, che dice insomma occorre anche sapere gestire per il personale, ma la strada scelta da chi fa lo sciopero selvaggio non è quella corretta. E anche sullo sciopero il giudizio del numero uno della CISL, Raffaele Bonanni, sempre a microfono il nostro Vincenzo Miglietta. Non ce l'ho con loro, sono lavoratori che purtroppo sono stati esasperati da coloro che del corporativismo hanno fatto la loro forza, e tant'è che hanno appiccato il fuoco e loro stessi oggi ne rimangono scottati e ne rimangono incendiati, e da manuale proprio, sono sfuggiti dalle loro mani perché sono stati aizzati da loro, ora vengono scottati, bruciati da loro stessi. I nostri lavoratori e piloti, i lavoratori confederali e i piloti confederali sono tranquilli, hanno apprezzato l'accordo perché sanno che serviva per salvare la compagnia di bandiera. Quindi il problema riguarda chi invece è stato illuso che si potesse ancora ricostruire la vecchia Alitalia governata dalla politica e finanziata dalla politica. Ancora il ministro Matteoli oggi ha detto: attenzione, spero che la precettazione serva, altrimenti i piloti e gli assistenti di volo si metteranno nella completa illegalità e allora, nel caso non rispondessero alla precettazione, e allora ci sono norme anche di ordine penale. E poi quanto all'ipotesi che È inutile nascondersi, aleggia tra alcune sigle sindacali che alla fine il governo potrebbe nazionalizzare all'Italia. Abbiamo visto alcune dichiarazioni fatte: si nazionalizzano le banche, nazionalizziamo anche l'Italia. Matteoli l'ha esclusa in maniera categorica. È possibile sotto tutti i punti di vista, è possibile per l'Europa, è possibile perché il governo non ha nessuna intenzione di nazionalizzare. Fino ad ora cos'è stata l'Italia sostanzialmente? Non è stata nazionalizzata e i risultati sono questi, ci vuole un imprenditore. La verità è che chi ha lavorato in Alitalia fino ad ora ha sempre avuto un proprietario astratto. Oggi CAI è un proprietario, ha un nome e un cognome, ha soci che investono e naturalmente lo fanno per guadagnare, ma nessuno può chiedere di investire senza avere il presupposto del guadagno. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare alla giornata di borsa, come dicevo, le dichiarazioni del ministro Tremonti, che ha detto in sostanza l'Italia resterà, nonostante la crisi finanziaria, sotto il 3% nel rapporto deficit-PIL, che la legge finanziaria triennale, quella diciamo presentata a luglio, già teneva conto della crisi in arrivo e anche in intensificazione. Tremonti questo oggi lo ha detto in aula intervenendo sulla legge finanziaria, dopo che tra l'altro da Bruxelles, come ricordavamo in apertura, si è beccato anche il nostro gufo il commissario europeo agli affari economici e monetari Gioachino Almunia aveva definito le previsioni tetre e anche altamente incerte, con un 2009 e un 2010 adesso anche come anni difficili e ancora minacce per la stabilità delle banche. Questo diciamo a Bruxelles, Almunia. Il ministro Tremonti invece, intervenendo in aula sulla legge finanziaria, ha detto appunto che la finanziaria tiene conto della crisi in arrivo, che il deficit resterà sotto il 3%, che nel pacchetto di misure, che da quello che si è capito dovrebbe arrivare il 25 novembre, insomma comunque a fine novembre, per stimolare la domanda e anche gli investimenti, verranno date alle famiglie le risorse possibili senza diciamo mettere in difficoltà, in qualche modo pregiudicare l'andamento del deficit, e che verranno cambiate anche le tariffe autostradali. Fermo comunque il nostro impegno a non violare gli impegni presi in sede di applicazione del patto di stabilità e di crescita, e ferma la fondamentale attenzione che noi riserviamo al debito pubblico italiano, pensiamo che sia possibile operare un provvedimento di sostegno all'economia, alle imprese e alle famiglie che non altera i saldi di finanza pubblica. Un provvedimento che sarà organizzato e non è ancora definito nei contenuti specifici, ma che sarà organizzato su alcune linee essenziali. La prima è quella della domanda pubblica. Noi abbiamo forte la convinzione che la crescita dipende soprattutto dalla domanda pubblica. Nei prossimi giorni lo sblocco del comitato da parte del CIPE di uno stock di investimenti stimato pari a 16 miliardi di euro, un meccanismo di strutturazione delle tariffe che faccia ripartire gli investimenti sulle autostrade, subordinando per una volta tanto le tariffe all'effettività degli investimenti e non l'una variabile indipendente dall'altra, l'utilizzo attivo e non passivo della Cassa Depositi e Prestiti a partire dal piano casa. Quindi fondi del CIPE, fondi della CDP, della Cassa Depositi e Prestiti e poi anche le tariffe autostradali. Per quello che, queste sono le linee guida, l'intervento sulle banche ha ricordato il ministro Tremonti, noi daremo una mano alle banche che lo chiederanno con fondi, però a patto che le banche che chiederanno l'assistenza dello Stato adottino anche un codice etico. E poi sulla cassa integrazione, così Giulio Tremonti. Non abbiamo la minima intenzione di aiutare le banche, abbiamo la massima attenzione al finanziamento alle imprese. se sarà attivato un meccanismo, sarà un meccanismo che attiva un canale di finanziamento alle imprese, non alle banche. Sarà un fondo che sarà denominato, finalizzato, passando attraverso le banche, ma alle imprese. Il funzionamento di quel meccanismo sarà monitorato e segnalato all'attenzione del Parlamento in funzione delle scadenze che riterremo ragionevoli. Ma fondamentalmente dovrà essere il sistema bancario che chiede, sarà il Parlamento che dispone, è una norma che sarà assolutamente bipartisan, la massima trasparenza e la subordinazione e l'acquisizione di quei fondi all'applicazione da parte delle banche di un codice etico. Altri provvedimenti come l'IVA di cassa che facevano parte del nostro programma sono in fase di studio e sono subordinati naturalmente all'approvazione europea che pure riteniamo ragionevolmente accessibile. Per quanto riguarda il capitale sociale o umano, già nella finanziaria con emendamento è potenziato il fondo per gli ammortizzatori sociali, intendiamo integrare con altri fondi quegli strumenti di assistenza in un anno che non si prevede positivo. Allora, chi ci chiede di dare un'analisi della legge finanziaria? Aspettiamo che arrivi in Parlamento, perché obiettivamente quella presentata a luglio l'abbiamo già commentata. Vediamo in Parlamento, vediamo come passerà in Parlamento. Vediamo se veramente, come dice il ministro Tremonti, è una finanziaria che comunque già teneva conto della crisi, dell'intensificarsi della crisi. Ripeto, il decreto famiglie e imprese, come si chiamerà, dovrebbe arrivare entro il 25 novembre dopo la riunione del G20. Le richieste del sindacato, da un lato la CISL chiede al governo di non incontrare solo le banche, incontri anche i sindacati, perché anche noi vogliamo discutere di come uscire dalla crisi. E il segretario della CGIL Guglielmo Epifani dice: occorre partire dalla parte fiscale per sostenere i redditi dei dipendenti e dei pensionati. I lavoratori dipendenti e pensionati hanno pagato 14 miliardi di euro di tasse in più. Sono gli unici che in un'economia che flette continuano a pagare più tasse dell'anno precedente a parità di potere d'acquisto. Io penso che sia giusto e necessario, se vuoi sostenere la domanda di consumi, che una parte di queste tasse in più venga restituito ai lavoratori, agli anziani e ai pensionati. E penso che vada fatto adesso, perché adesso è il momento per sostenere la domanda e invertire il ciclo. Così Guglielmo Epifani alla conferenza internazionale della CISL, quindi gli applausi che sentivate erano dei delegati della CISL. Di nuovo in diretta per parlare adesso di borsa. No, non c'è, lo dico a chi ha scritto, è stato nessun riferimento oggi al quoziente familiare, non che noi riferimento perlomeno che non un riferimento che noi abbiamo potuto leggere. Ancora poi alcuni di voi ci fanno sapere che c'è un ciclo lunare. Non riesco più a ritrovare il messaggio, ma era molto divertente, che c'è un ciclo lunare avverso con forti perdite previste tra venerdì e martedì prossimo. Magari la invitiamo un giorno, l'astrologa che faceva le previsioni sulla borsa, perché visto quanto ci hanno azzeccato gli analisti, meglio gli astrologi delle volte, senza essere riverenti. Allora, Andrea Fontana, Radio Colle, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Tutte male le borse, meno 5% Francoforte, meno 5% Parigi, meno 3,6% Londra, meno 6,2% l'S&P MIB, meno 5,1% Milano. Vorrei concentrarmi sul caso Intesa San Paolo, meno 9,1%, ma è arrivata a perdere oltre il 13%, e Unicredito, meno 6,8%, è arrivato a perdere più del 9%, se aggiungiamo anche Bulgari, che da sola ci spiega le difficoltà del settore lusso, meno 6%. Sì, per quanto riguarda riguarda Intesa, non solo i risultati trimestrali molto, molto attesi, ma soprattutto era ancora più attesa l'annuncio per quanto riguarda la politica dei dividendi nel 2008. L'annuncio è arrivato e il Consiglio di gestione di Intesa San Paolo ha intenzione di proporre all'Assemblea di non procedere alla distribuzione di dividendi in contanti per l'esercizio 2008, quindi forse dividendi in azioni ma non non cash, e inoltre i vertici di Intesa hanno espresso una certa cautela su quelli che saranno gli obiettivi di fine anno del 2008. Passerà escluso la necessità di un aumento di capitale e si è auspicato di poter riportare il dividendo in contanti alla normalità il prima possibile, ma certamente questo non è bastato a tenere a galla il titolo che, come tu ricordavi, ha perso in maniera consistente nell'arco della giornata, una giornata negativa per i bancari. Tengono banco le trimestrali domani mattina e questa sera arriverà quella della Banca Popolare di Milano, che tutto sommato ha limitato le perdite rispetto agli altri. Domani mattina sono attese quelle di Unicredit e di UbiBanca, non a caso due tra gli istituti che comunque hanno perso di più. Ricordavi tu la performance di Unicredit, UbiBanca ha perso invece quasi il 4%. Altro settore, quello di Bulgari, oggi negativo tutto il settore del lusso. Basti pensare che in Francia le cose sono andate molto peggio per quanto riguarda Louis Vuitton e per quanto riguarda altri soggetti del settore lusso. Tra due giorni Bulgari pubblicherà la trimestrale, gli analisti si attendono una trimestrale debole e soprattutto avranno gli occhi puntati sulle prospettive che l'azienda fornirà per quanto riguarda la stagione forte degli acquisti, cioè la stagione natalizia. Quella sarà decisiva per delineare il profilo dei risultati 2008. Nell'attesa Bulgari ha perso il 5,8% oggi. Allora, rapidamente, visto che non è che ci siano molti sviluppi, ma ancora cali, sentiamo da Andrea Malanda, Sole 24 Ore, come sta andando il titolo General Motors, anche oggi profondo rosso, calo intorno al 17-15%, ai livelli che non vedeva dal 1943. Andrea, aggiornaci. Sì, buonasera a tutti. Sì, il titolo nelle ultime battute è un pochettino recuperato, ha fatto un minimo a $2,75, adesso quotava 2,90, comunque sotto i $3 abbondantemente, e quota vale complessivamente meno di 2 miliardi di dollari. Non ci sono grandi sviluppi. Ieri nell'incontro tra il presidente eletto Obama e Bush, Obama ha sollecitato misure di aiuto al settore auto prima del suo insediamento. Questa è la cosa fondamentale. GM, ma anche Chrysler e forse anche Ford non possono resistere i due mesi abbondanti che trascorreranno da qui all'insediamento di Obama aspettando queste misure di aiuto. Quindi hanno bisogno di soldi dell'erogazione immediata dei prestiti già varati e probabilmente di nuovi fondi, ed è su questa scommessa che il mercato si interroga. Quindi evidentemente il calo di questi giorni dà per scontato da un lato che sia difficile che i soldi arrivino rapidamente, dall'altro non dimentichiamo, come ha evidenziato qualche analista, che in caso di comunque intervento pesante dello Stato, come per esempio successe con la Chrysler alla fine degli anni 70, gli azionisti verrebbero penalizzati, cioè rimarrebbero gli attuali azionisti in coda dopo lo Stato, gli obbligazionisti e il fondo pensione dei dipendenti. E quindi, diciamo, nel paese più liberale, patria del libero mercato, lo Stato interverrà, oltre come ha già fatto con centinaia di miliardi di dollari per i gruppi bancari e finanziari, anche a questo punto per i gruppi automobilistici. Questo lo dico perché fotografa l'intensità di questa crisi. Grazie ad Andrea Malan per questo aggiornamento e anche per la sintesi con cui l'ha realizzato. Grazie Andrea Fontana, collega di Radio Corriere Sole 24 Ore. Gli altri titoli, i tre casi veramente sono quei due bancari che abbiamo detto e Bulgari, però altri titoli: Prismian meno 6,5, Geox meno 6, Fiat meno 6, Alleanza meno 5,90, Finmeccanica meno 5,5 come Banco Popolare, Autogrill meno 4,8 come Fondiaria e le Generali, Eni meno 4,6, Unipol meno 4%. E Monte dei Paschi, Tenaris, UbiBanca, Impregilo, Saipem, A2A, Mediaset, Buzzi, Unicem perdono tutte il 3%, come Seat Pagine Gialle ed ST Microelectronics, unico titolo positivo, Italcementi più 2,2%, Eterna più 0,4%. minuti, seconda parte di Focus Economia. Devo dare delle correzioni, chiedo scusa agli ascoltatori, ma c'è qualche problema nei dati che ci arrivano da Radio Core, nel senso che sono tutti giusti gli indici che abbiamo letto di borsa e anche quasi tutti i titoli. Per un motivo che stiamo cercando di verificare, il calo di Intesa San Paolo di Unicredito non è corretto la cifra che abbiamo letto, nel senso che Unicredito ha perso alla fine Intesa ha perso alla fine il 16,8% e non il 9% come erroneamente da noi riportato. Unicredito ha perso l'11% e non il 6,8%, per cui su questo per motivi che non riusciamo a capire, ma non corrispondono gli indici all'andamento, i valori nostri ai valori effettivi. Vi confermo invece tutti gli altri titoli e soprattutto la chiusura di borsa, che è meno 6,2% sull'S&P MIB, meno 5,1% sul MIBTEL. Chiedo di nuovo scusa, non succede praticamente mai. Adesso però cambiamo tema: mentre Wall Street continua a perdere un 3%, noi ci occupiamo dei rapporti tra Italia e Brasile. C'è un acronimo che si usa molto in questi mesi, in quest'ultimo anno, è BRIC, i paesi del BRIC, che starebbe per Brasile, Russia, India e Cina, cioè le economie emergenti potrebbero diventare i veri soggetti economici di questo secolo. Il Brasile quindi è già stato inserito dagli economisti a pieno titolo tra le economie forti del pianeta. Oggi, nell'ambito della visita di Stato di 5 giorni, fino a giovedì, il presidente brasiliano Lula da Silva si è tenuto presso la sede della Confindustria un business forum Italia-Brasile. Allora, paese con una crescita superiore al 5% l'anno scorso, decima potenza economica mondiale, è presidente di turno del G20 che si riunirà a Washington. Su questo vi sono state anche dichiarazioni del presidente del Consiglio Berlusconi. Andiamo con ordine, sentiamo da questa scheda quanto conta il Brasile per l'Italia, ma anche l'Italia per il Brasile. Il più grande paese del Sud America è oggi la decima economia mondiale, con una crescita che nel 2007 è stata del 5,4%, il miglior risultato dal 2004. Ma i venti della crisi globale sono arrivati anche nel paese verde oro. Le previsioni per quest'anno indicano infatti un PIL al di sotto del 5%. Il Brasile dunque non è rimasto immune alla discesa delle quotazioni delle materie prime, di cui è forte esportatore, al calo della domanda internazionale e alla flessione delle borse. L'indice Bovespa della Borsa di San Paolo da inizio anno ha quasi dimezzato il suo valore. Ma il paese, guidato dal presidente operaio, ex lustrascarpe, venditore di strada e sindacalista, rimane per l'Italia la porta di ingresso per l'America Latina. Culturalmente vicino a noi, su 190 milioni di abitanti, quasi un terzo è di origine italiana. Con il Brasile vantiamo importanti relazioni commerciali. Il volume di interscambio tra i due paesi è previsto a circa 8 miliardi di euro quest'anno, il doppio rispetto a 3 anni fa. Terzo esportatore a livello europeo dietro Regno Unito e Francia e davanti a Germania, l'Italia nei primi 7 mesi dell'anno ha esportato in Brasile per oltre 1,9 miliardi di euro, soprattutto meccanica strumentale e tecnologia. Sfiora invece i 2,4 miliardi di euro il nostro import, costituito in particolare da cuoio, minerali, caffè, sementi e apparecchi meccanici. Tredicesimo tra i paesi investitori con 214,5 milioni di euro nei primi 9 mesi dell'anno, la presenza italiana in Brasile è cresciuta in modo sostenuto nel corso degli anni. Il numero delle nostre imprese che operano in loco è infatti triplicato negli ultimi 10 anni, arrivando a oltre 300. Allora, questo è il ruolo del Brasile, dell'interscambio commerciale. Avete sentito, l'Italia è più importante anche della Germania in quel paese che assomiglia a un continente. Lo ha ribadito il presidente Lula, che ha detto ci sono ampi spazi per le imprese italiane in Brasile. Il rischio, ha detto Lula ironizzando, è casomai che facciano più profitti in Brasile che in Italia. E ha anche evidenziato lo sforzo, questo è un tema molto importante a cavallo tra politica e economia, fatto dal suo paese per far uscire milioni di persone dalla povertà, e come il Brasile sta affrontando una crisi che, come ricordava la nostra scheda, non è che lo lasci del tutto illeso. 20 milioni di brasileiros saíram da pobreza. Il nostro paese è stato capace di far uscire dalla povertà 20 milioni di brasiliani. Un risultato che non è stato raggiunto penalizzando la crescita economica, ma privilegiando l'uso di strumenti di immediata attuazione per dare alle persone la prospettiva di un futuro migliore. Siamo intervenuti sul fronte della sanità, dell'educazione e della formazione professionale. Dal nostro programma sociale per le famiglie hanno tratto vantaggio 44 milioni di persone. Stiamo condividendo la nostra esperienza con altri paesi sudamericani, caraibici e africani, fornendo loro le nostre conoscenze. Per fare fronte alla crisi finanziaria, abbiamo aperto linee di credito per proteggere i piccoli produttori e i piccoli imprenditori, a cui fa capo il 60% dell'occupazione nel paese. E questo ci permetterà di creare solo quest'anno oltre 2 milioni di posti di lavoro. Per stimolare la domanda interna faremo tutto il possibile per aumentare il dinamismo economico del paese. Anche se sappiamo bene che nessun paese può proteggersi completamente dalla crisi globale, sarà anche necessario porre delle priorità dando un'enfasi maggiore alla lotta alla povertà. Ho fiducia nel fatto che Italia e Brasile lavoreranno insieme nel cercare soluzioni per far avanzare le nostre conquiste sociali, per arrivare a costruire un mondo migliore e più giusto. E nos ajude a costruire un mondo migliore e più giusto. E allora, importanti i 20 milioni di brasiliani che sono usciti dalla povertà, ma anche il modo in cui il Brasile sta fronteggiando la crisi economica. Tra l'altro, visto che appunto il Brasile sarà presidente di turno dei G20, Lula ha parlato anche di questo vertice molto atteso a metà novembre a Washington, ha detto forse a Washington non troveremo una soluzione da subito, una sola riunione non basterà, occorrerà comunque aumentare i livelli di occupazione, più posti di lavoro ed evitare la crisi di panico. Nel frattempo il Presidente del Consiglio Berlusconi ha anche aggiunto che a febbraio andrà in Brasile, ha definito Lula il simbolo dei meno fortunati, e poi nel frattempo è stato firmato un accordo di collaborazione nel settore della difesa, firmato oggi infatti dai ministri della difesa dei due paesi, Ignazio La Russa e Nelson Jobim, per un accordo appunto di collaborazione nel campo della difesa, dei rapporti bilaterali. E già ci occupammo l'anno scorso, proprio da Rio de Janeiro, se non vado errato, di tutti gli interessi che ha il Brasile, proprio come controllo interno, oltre che difesa verso l'esterno, interessi che ha per esempio con il gruppo italiano Finmeccanica, ha interesse soprattutto per quello che riguarda il Brasile a sviluppare forme di radar e di aerei che gli permettono anche il controllo di un territorio vastissimo. E allora, c'è un'impresa in Italia che fattura 130 miliardi di euro con un utile che sfiora i 70 miliardi al netto degli investimenti e degli accantonamenti. Un'impresa che non paga un euro o una vecchia lira di tasse. È la Mafia S.p.A. Nel rapporto della Confesercenti di quest'anno sono 130 miliardi. La cosa spaventosa è che nel 2007 lo stesso rapporto stimava 90 miliardi di fatturato, nel 2006 77, quindi non c'è crisi che tenga, finanziaria, subprime e quant'altro. La Mafia S.p.A. continua, 180.000 commercianti coinvolti, ma con più strozzini le posizioni debitorie possono arrivare fino a 500.000 di persone. E poi sempre più truffe alimentari, sempre nel rapporto della Confesercenti, più 93% nel 2008, questo è il numero di sequestri effettuati dai carabinieri dei NAS relativi ai generi alimentari, e non è un caso anche perché il fatturato del mercato ittico, quindi la pesca, attira fortemente le organizzazioni criminose. 2 miliardi di fatturato del settore con un totale di 8.500 esercizi. Questi, diciamo, a volo d'uccello sono alcuni degli elementi emersi oggi dal rapporto SOS Imprese. Il presidente di SOS Imprese, Lino Busà, al microfono della nostra Vanessa Colangiuli, spiega innanzitutto le modalità con cui la criminalità influenza tutte le attività economiche. La mafia è una grande potenza economica, con un fatturato complessivo di 130 miliardi di euro ed un utile netto di 70 miliardi. Una liquidità enorme che in questo momento di crisi economica è particolarmente pericolosa, perché può attirare sia imprenditori in grande difficoltà e rischio fallimento, ma anche pezzi di finanza, diciamo, eticamente poco orientata, che potrebbero pensare di poter fare affari con organizzazioni mafiose. Il rapporto che presentiamo sottolinea proprio i condizionamenti della criminalità organizzata nel mercato, nell'economia, ma anche i settori diretti e gestiti direttamente da loro con proprie imprese. Ecco, quali sono i settori in cui c'è appunto maggiore criminalità? Ma direi costruzioni, edilizia in senso lato in tutti i suoi aspetti, rifiuti, filiera agroalimentare, giochi, scommesse, divertimento, ristorazione. Questi quattro settori sono i settori privilegiati in cui la mafia investono con proprie aziende e controllano anche il mercato. Qual è la risposta dei piccoli commercianti e anche degli imprenditori a denunciare questi fenomeni? Ma guardi, adesso c'è un'area nuova, non è che il racket è stato sconfitto, anzi è ancora fortemente diffuso, soprattutto nel mezzogiorno, però incominciano a essere segnali di ribellioni che sono forti e che riguardano Napoli, Palermo, Gela, Lamezia, e adesso da qualche tempo a questa parte anche nel Casertano incomincia appunto ad esserci questa area nuova. Bisogna investire sul movimento anti-racket, rendere effettivamente conveniente la denuncia, sostenere i commercianti, non quelli coraggiosi, ma tutti, che decidono di collaborare con le forze dell'ordine per fare gli imprenditori liberi. Che cosa chiedete alle banche e al governo? Ma guardi, uno dei fatti che segnaliamo nel rapporto è che l'usura è un fenomeno in crescita. Le banche e il governo, le banche, il sistema bancario deve collaborare di più, non solo dal punto di vista del credito, ma anche a dare una mano, perché qualsiasi direttore di banca sa chi sono gli usurai e ci deve essere un interesse comune a debellare le reti usurai che sono sempre più professionali ed organizzate. Insomma, non da poco il ragionamento che faceva il presidente di SOS Imprese in un periodo di forte difficoltà finanziaria delle imprese. Ci può essere la tentazione delle imprese e anche dei singoli soggetti di ricorrere a questa massa di denaro sporco, però sappiamo che, come dicevano i latini, il denaro non ha odore, e quindi la tentazione è che poi chi ha i soldi li ha in cassa in questo momento, possano corrompere in maniera ancora più facile chi ha difficoltà economiche e di liquidità, sono fortissime. Vale la pena ricordare una cosa di questo rapporto, di cui abbiamo già parlato anche in altri appuntamenti. La Confesercenti SOS Imprese ha stilato proprio la gerarchia dell'organizzazione mafiosa come se si trattasse di una grande azienda. E allora, il capo clan, che loro hanno chiamato l'amministratore delegato della mafia SPA, guadagna dai 10 ai 40 mila euro al mese. Poi ci sono i vari direttori, i direttori di area, i capi zona, i capi mandamento, dai 7 ai 10 mila euro di stipendio al mese, i vice capi zona guadagnano tra i 5 e i 6 mila euro al mese. Gli operativi, che nel mondo della mafia e della criminalità si chiamano autori di attentati e omicidi, dai 2.500 fino ai 25.000 euro al mese. E poi gli operativi più bassi, la parte commerciale si chiamerebbe in un'azienda di servizi, i pusher, gli esattori del pizzo, le sentinelle. Il pusher guadagna dai 2.000 ai 1.500 euro al mese, sei minorenne invece la metà, l'esattore dai 2.000 ai 1.500 euro al mese, così come il palo o la sentinella. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni, auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.